Benvenuti gentili ascoltatrici e ascoltatori ad Absolute Beginners. Questo è Babe. Questo è Sassà. Sassà, di cosa parliamo questa sera? Stasera siamo a Providence, Rhode Island, per parlare degli Arabon Radar. Arabon Radar che erano tra i portabandiera del famoso, non lo so, gentili ascoltatori e ascoltatrici, Noise di Providence, appunto. Noise di Providence, un gruppo che mi ricorda tanti gruppi, un gruppo che mi ha colpito particolarmente, e dai Babe, iniziamo. We'll be right back. Beh, già il nome, Arab on Radar. Ok, non eravamo ancora in psicosi post 11 settembre 2001, siamo nel 95-96, questi sono i primi singoli degli Arab on Radar, erano ancora in 5, c'era anche una ragazza che suonava il basso, che poi se ne sarebbe andata verso la fine degli anni 90, però ebbero un suono, mi ricordo all'epoca, come dire, piuttosto influente, ricordo che dalla mia parte a un certo punto tutti cominciarono a mettere distorsore, questo tipo di distorsione sul basso, cosa che prima era inascoltata, non avevo mai visto una cosa così. Beh, i quattro venivano, anzi i cinque inizialmente, come hai appena detto Babbe, venivano dalle classi un pochino più povere di Providence, e leggenda vuole che i quattro si incontrano ad una... ad un colloquio per lavorare in una centrale che produceva pezzi per sottomarini nucleari. E beh, nei test attitudinali si conoscono, vengono tutti e quattro rifiutati e si incontrano, quindi dicono beh, andiamo a fare qualche birra, e dopo qualche birra decidono di formare il gruppo, e in quel bar c'era questa ragazza Andrea che le dice beh, ma io posso suonare il basso, e quindi è così a quanto pare che il gruppo si formò. Ma tu sai, avresti mai presi e messi a montare pezzi di un sottomarino nucleare? Ma guarda, io sarei andato a suonare il basso con loro, mettiamola così. We'll be right back. Eccoci ancora qua, Absolute Beginners, Aragorn Radar, e stiamo ascoltando i singoli, i primi singoli del gruppo, formato dai membri che si facevano chiamare Mr. Post Traumatic Stress Disorder, Mr. Taipei, Mr. Clinical Depression e Mr. Obsessive Compulsive Disorder. Allora, cosa vuol dire questo? I quattro ragazzi volevano creare dei personaggi, volevano creare una storia, volevano creare una scena, e questo è ben visibile nei loro live, no Babe? Ma sì, la settimana scorsa abbiamo parlato dei Locust, che neanche avevano bisogno di crearsi dei nomi fittizi, si vestivano da api. Travestirsi negli anni, fino ai 90, non era più una cosa comune, non siamo più nel glam anni 70, dove c'era il face painting e cose così. No, eravamo, qua siamo comunque nell'area post-hardcore, c'è del metal, c'è chi andava a vedere gli Aragorn Radar, che spesso tra l'altro erano proprio in giro, in tour con i Locust, non si aspettava certo di vedere gente truccata, ma l'intensità e la follia e il senso di, come dire, malessere, di disordine mentale, d'altronde i nomi dei sono quattro quelli. Richiamano quello, come dire, il disordine mentale si percepiva ed era abbastanza disturbante. Assolutamente, i ragazzi, al contrario di Locust, magari mettevano delle giacche addirittura quando salivano on stage, ma poi potrete vedere, c'è un corto documentario di 30 minuti anche su YouTube, si chiama Sunshine for Shady People, che è un misto tra interviste e scene live di questo gruppo, e potrebbe rendervi l'idea di quello che era un concerto degli Aragorn Radar. We'll be right back. Direi che questi Arbon Radar siano un po' come i Locust, tra le ultime propaggini, gli ultimi colpi di coda del post-punk, tutto. E oltre non è che si potesse andare molto, e la follia c'era tutta, ma comunque c'era anche tanto spirito do it yourself, quello che negli anni, dagli anni 80 in avanti, dai Black Flag in avanti, aveva permesso a tante piccole realtà, come loro, da Providence, da varie province americane, le varie periferie americane, di emergere E grazie alla catena, alla rete di locali, di distributiva creata a partire dagli anni 80 e che era ancora in piedi alla fine degli anni 90, band come gli Arabon Radar erano in grado di muoversi e di fare tour per anni. Loro dichiarano di aver fatto tipo 7 anni di tour ininterrotti fino in Europa, vennero anche a Milano sicuramente. Insomma, ebbero tutto sommato un buon successo. Assolutamente, perché hanno girato, come hai detto Babe, in lungo e in largo, e quando all'inizio dicevo che mi ricordavano tanti gruppi, per citarne alcuni sicuramente direi Gang of Four, a me, poi i Divo per queste chitarre molto particolari, e poi anche qualcosa, non lo so, Talking Heads, per come loro abbiano un messaggio da trasmettere. E negli ascolti siamo passati dai primi singoli al primo vero e proprio album, che si chiama Queen Hygiene, Number 2 del 1997, registrato da Weasley, che è un personaggio che qua ad Absolute Beginners conosciamo perché era il leader, giusto Babe? È il nostro amico Weasel Walter, Esatto. di altri pazzi scatenati, Flying Lutan I Bachelors. Flying Lutan Bachelors, quindi un link tra le nostre puntate qui oggi con gli Arabon Ma sì, ero lì di passato a Chicago, ho detto dai, chiediamo a Weasel Walter se ci Radar. Se ci registra produce, se ci registra. una cosa così. Thank you. siamo in saluti. E gli Arabon Radar non sono certo un ascolto facile. All'epoca c'era chi li stroncava sulle riviste musicali, anche perché è vero, ebbero un buon successo, ma non erano certo per tutti. Davvero i loro suoni sembravano dei trapani da dentista, e anche chi avesse, come dire, chi fosse ben disposto verso di loro potrebbe essere stato colto male in qualche concerto. Poi ci sono testimonianze di concerti piuttosto violenti, comunque con dove strane cose succedevano. Beh sì, botte, svenimenti, convulsioni, ci sono tante leggende, ma dal 2002 in poi il gruppo ha deciso di non pubblicare più niente. Tubab ha detto discreto successo, però parliamo comunque di un gruppo che registrò solo per le etichette 31G e la Skingraft, quindi sempre nel circolo underground, indipendente, quindi di sicuro hanno spaccato i giudizi e le sensibilità delle persone, e a noi stanno simpatici ed è per questo che li abbiamo proposti oggi. E non ci rimane, Babe, che salutare ascoltatrici e ascoltatori e darvi appuntamento alla prossima puntata. Certo, ricordandovi che se volete riascoltare le puntate le trovate tutte su neverbeginners.blogspot.com. trovate questa puntata e le precedenti. Beh sì, a questo punto grazie dell'ascolto e alla prossima puntata. Ciao Sasà. Ciao Babe, ciao a tutti.